Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera da Maurizio Melis, benvenuti a Smart City. Il 2020 sarà l'anno del test di Vega C, un nuovo razzo vettore destinato al lancio di satelliti di dimensioni variabili, da piccolissime a medie. Un razzo vettore, un lanciatore sviluppato e realizzato quasi totalmente in Italia. Ne parliamo con Alessandro Gabrielli, che è capo del Dipartimento Launchers and Space Transportation dell'ASI, l'Agenzia Spaziale Italiana. Buonasera, buonasera Gabrielli. Buonasera a lei e buonasera a tutti i radioascoltatori. Allora, intanto descriviamo questo razzo vettore, a partire dalle dimensioni, ma poi insomma come è composto. Oh, dunque, l'architettura del Vega C si basa su quella del lanciatore Vega esistente. Quindi, come il suo predecessore, il Vega C è composto da tre stadi con motore a propulsione solida e uno stadio, quello alto, a motore a propulsione liquida. Ha un'altezza complessiva di circa 35 metri e una massa totale complessiva di circa 210 tonnellate. Il primo stadio è il P120C. E pensate che è il più grande motore monolitico a propellente solido al mondo ad essere costruito in fibra di carbonio. Questo le conferisce ovviamente prestazioni di elevata resistenza a carichi aerodinamici e strutturali durante la fase di ascesa in atmosfera, soprattutto un'elevata leggerezza. E ha un diametro di circa 3,5 metri, e una massa di propellente di circa 140 tonnellate ed ha una spinta di circa 450 tonnellate, quindi riesce a sollevare il doppio del suo peso. E la cosa importante del P120 è che rappresenta il motore di primo stadio per il Vega C, ma sarà impiegato anche come booster laterali di un altro vettore che è in fase di costruzione, che è l'Ariane 6. Certo. Quindi la comunalità con Ariane 6 consente ovviamente di ottenere elevati radi di produzione, certo, che contribuiscono alla riduzione dei costi. Poi abbiamo anche gli altri stadi che lo compongono, che è lo Zefiro 40 e lo Zefiro 9. Sono anch'essi dei motori a solido con involucro in fibra di carbonio e sono sviluppati interamente in Italia. E l'azienda che li costruisce è l'Avio, che è anche ovviamente il sistemista di tutto il lanciatore, e Avio si trova a Colleferro, quindi a una quarantina, cinquantina di chilometri da Roma. Ecco, ricordiamo che questi motori a combustibile solido, una volta che si sono accesi, non si possono più spegnere e infatti vengono utilizzati per spedire il razzo fino, diciamo, alle altezze orbitali. E poi c'è questo quarto stadio che invece ha propellente liquido e quindi si può accendere e spegnere, usare per fare tante manovre, no? Se ho ben capito, che è più piccolino. Sì, esatto. Allora, dunque, l'AVUM è la parte alta, verrà utilizzato ovviamente la stessa configurazione di quell'attuale, ma sarà potenziato anche con serbatoi più grandi in modo da caricare più propellente. E questo ovviamente grazie alla proprietà di multiriaccensione, ben 8 riaccensioni, è possibile garantire ovviamente un'ampia versatilità di dispiegamento dei carichi utili, chiamati payload, certo, su diverse orbite, quindi a diverse quote. E poi le conferisce anche la possibilità di deorbitare dopo aver rilasciato i satelliti in orbita. Questo per non lasciare lo stadio alto in orbita come uno space debris. Per cui come anche un detrito spaziale. Deorbitare vuol dire farlo autodistruggere nell'atmosfera fondamentalmente, no? È esattamente, corretto? Sì. Dicevamo che tra non molto ci dovrebbe essere il primo lancio, per quando è previsto? Allora, purtroppo lo stato di emergenza sanitaria sta causando dei leggeri rallentamenti, insomma, nella preparazione della campagna di lancio. Attualmente essa è prevista alla fine del 2020, se siamo fortunati anche per novembre e dicembre, e potremmo assistere al volo inaugurale, che prevede il lancio del satellite Lares 2, che è un satellite scientifico tutto italiano, che viene sviluppato dall'industria OHB per conto dell'Agenzia Spaziale Italiana, ed insieme imbarcherà anche dei CubeSat che sono sviluppati da diversi utenti universitari o istituzionali. Ecco, a proposito di CubeSat, sono dei microsatelliti, diciamo così, mi pare ci siano molte aspettative nel futuro prossimo rispetto all'utilizzo appunto di questi micro e mini satelliti. Come la vede? Allora, innanzitutto il nuovo lanciatore Vega C, come abbiamo detto, sarà molto più flessibile e versatile rispetto al suo predecessore e questo permette anche di catturare quel mercato di circa il 50-90% dei satelliti in orbita a basso, soprattutto per quanto riguarda il mercato dei satelliti di osservazione della Terra, ma anche il mercato delle emergenti costellazioni di microsatelliti che operano nel settore delle telecomunicazioni in orbita bassa, piuttosto che per la connettività internet a livello globale. Ovviamente ci sono microsatelliti che vengono messi in orbita per fare delle sperimentazioni puramente tecnologiche e scientifiche, sia Certo. nel mondo della tecnologia dei nuovi materiali, piuttosto ad esempio che delle Ne biotecnologie. abbiamo parlato proprio recentemente in una puntata qui di Smart City. Quindi, insomma, è importante avere un vettore che è in grado di mettere in orbita questi microsatelliti, perché ci sono molti progetti che coinvolgono satelliti di piccole dimensioni. Guardi, una grande innovazione del Vega C è sicuramente il sistema di dispiegamento di questi microsatelliti che è chiamato SSMS, ovvero Small Space Transmission Services. È un adattatore che è sviluppato inizialmente, come ho detto, per il Vega e sarà ovviamente enormemente utilizzato per il Vega C. E gli consentirà di aumentare la quantità di satelliti miniaturizzati che possono essere trasportati su ogni singolo lancio. Questo è un servizio che si rivela particolarmente adatto anche per intercettare il mercato di microsatelliti che sta aumentando in questi Sì, anni. infatti. SSMS è composto da diversi moduli che possono essere assemblati in modo diverso per dare origine a diverse configurazioni. E che posso quindi rispondere meglio all'aggregato dei satelliti da lanciare in orbita ed è in grado di imbarcare senza alcuna difficoltà addirittura 50 unità di Caspita. tra microsatellite e CubeSat di diverse dimensioni e pesi per essere poi messi in diverse quote orbitali. Va bene, allora, grazie Alessandro Gabrielli e avanti così. Grazie a lei e incrociamo le dita per il volo inaugurale. Bene, cari ascoltatori, ci diamo appuntamento a lunedì. Buon fine settimana.